26esima traccia. E anch'io dico proprio sul serio, vi assicuro, rispose gaiamente Miss Elton, decidendo di star sempre allerta e chiedendo anche ai miei amici di stare allerta, che nulla di perfettamente soddisfacente possa sfuggirci. E continuò su questo tono, senza che nulla potesse fermarla, finché Mr. Woodhouse entrò nella stanza. Allora la sua vanità cambiò d'oggetto, ed Emma la sentì dire nello stesso mezzo sussurro a Jane: «Ecco che viene questo mio caro vecchio zerbinotto. Pensate com'è galante a venir via prima degli altri uomini, com'è adorabile. Vi assicuro che vado pazza per lui. Ammiro tutte quelle sue creanze deliziosamente antiquate. Mi garbano tanto di più della moderna disinvoltura. La disinvoltura moderna spesso mi disgusta. Ma di questo vecchio buon Mr. Woodhouse vorrei che aveste sentito che discorsi galanti mi ha fatto a pranzo. Oh, vi assicuro che cominciavo a pensare che il mio caro sposo se ne sarebbe ingelosito. Mi immagino d'essere entrata nelle sue grazie. Ha fatto caso al mio vestito. Come vi pare? È stato scelto da Selina. È bello, credo, ma mi domando se non abbia troppe guarnizioni. Ho un vero orrore per i fronzoli. Adesso mi tocca mettermi addosso un po' d'ornamenti, perché questo s'aspetta da me. Una sposa, sapete, deve apparire tale, ma il mio gusto naturale è tutto per la semplicità. Un vestito di stile semplice è così infinitamente da preferirsi a uno ricercato. Ma credo d'essere in minoranza, che siamo in pochi ad apprezzare la semplicità nel vestire, lo sfoggio e la ricercatezza vanno per la maggiore. Ho idea di mettere una guarnizione come questa sulla mia popola in bianco e argento. Credete che ci starà bene? Tutta la compagnia si era appena riunita nel salotto allorché Mr. Weston fece la sua apparizione tra loro. Era tornato, aveva pranzato tardi e appena finito si era recato a piedi a Hartfield. Quelli che lo conoscevano bene se l'aspettavano, sicché non poté esservi sorpresa. Ma la gioia fu grande. Mr. Woodhouse fu tanto lieto di vederlo adesso quanto sarebbe stato spiacente di vederlo prima. Solo Mr. Knightley era compreso di muto stupore. Che uno che avrebbe potuto passare la serata tranquillamente a casa, dopo un giorno d'affari a Londra, dovesse mettersi in cammino in moto e far mezzo miglio di cammino per recarsi a una casa altrui, allo scopo di rimanere in società fino all'ora di coricarsi, allo scopo di finire la giornata tra sforzi di cortesia e il rumore di parecchie persone, era un caso che lo colpiva profondamente. Un uomo che era stato in moto fin dalle 8 della mattina e avrebbe potuto star tranquillo adesso, che aveva parlato a lungo e avrebbe potuto star silenzioso, che si era trovato in più di una folla e avrebbe potuto star solo. Un uomo così fatto abbandonare la tranquillità e l'indipendenza del proprio focolare e la sera d'una fredda giornata d'aprile, col nevischio, precipitarsi fuori di nuovo nel mondo, se egli, toccandola appena col dito, avesse potuto istantaneamente riprendersi la moglie, ci sarebbe stato un motivo, ma la sua venuta avrebbe probabilmente prolungato la riunione anziché porvi termine. John Knightley lo guardò attonito, poi scrollò le spalle e disse: «Non l'avrei creduto neanche di lui». Frattanto, Mr. Weston, senza sospettare minimamente l'indignazione che suscitava, felice e allegro come sempre, e con tutto quel diritto di monopolizzare la conversazione che conferisce l'assenza d'un giorno da casa, si rendeva piacevole tra gli altri. E dopo aver soddisfatto le domande della moglie circa il suo pranzo, convincendola che nessuno delle accurate istruzioni da lei date ai servi era stata dimenticata, e dopo aver divulgato le notizie pubbliche che aveva raccolto, s'accinse a dare una comunicazione familiare che, sebbene rivolta principalmente a Mrs. Weston, egli non dubitava affatto che avrebbe interessato parecchio tutti i presenti. Diede a lei una lettera, era di Frank, e diretta a lei. Gli era capitata per la strada e si era preso la libertà d'aprirla. «Leggila, leggila», disse, «ti farà piacere. Son poche righe, non ci metterai molto. Leggila, Demma». Le due donne le dettero una scorsa insieme, ed egli sedeva sorridendo e parlando loro tutto il tempo, con voce un po' bassa, ma che poteva udirsi benissimo da ognuno. «Dunque, viene, vedete, buone notizie, mi pare, che ne dite? Io vi ho sempre detto che sarebbe tornato presto, no? Anna, mia cara, non ti ho sempre detto così, e tu non volevi credermi? A Londra, la settimana prossima, vedi, al più tardi, immagino, poiché quella è impaziente come il signore nero quando c'è qualcosa da fare. Molto probabilmente saranno là domani o sabato. Quanto alla malattia di lei, non è niente, come naturale, ma è ottima cosa avere Fran di nuovo tra noi, alla breve distanza di Londra. Rimarranno per un bel pezzo quando ci andranno, e lui sarà la metà del tempo da noi. È precisamente quel che volevo io. Ebbene, notizie abbastanza buone, eh? Hai finito di leggere? Emma, l'ha letta tutta? Ripiegala, ripiegala, ne parleremo a lungo un'altra volta, adesso non è il caso. Accennerò solo della cosa agli altri in modo ordinario. Mrs. Weston rimase contentissima in tale circostanza. Non v'era nulla che mettesse in soggezione i suoi sguardi e le sue parole. Essa era felice, sapeva di essere felice e sapeva di dover essere felice. Le sue congratulazioni furono calorose e franche, ma Emma non riusciva a parlare con tanta spigliatezza. Era un po' occupata a pesare i propri sentimenti, a cercare di capire il grado della sua agitazione, che tendeva a ritenere considerevole. Tuttavia, Mr. Weston, troppo vivace per essere un buon osservatore, troppo comunicativo per lasciar parlare gli altri, rimase assai soddisfatto di ciò che ella disse e senz'altro si allontanò per allietare gli altri suoi amici con una comunicazione parziale di ciò che l'intera stanza doveva già aver sentito indirettamente. Fu bene che egli non mettesse in dubbio la gioia d'ognuno, o altrimenti avrebbe potuto pensare che Mr. Woodhouse o Mr. Knightley non fossero particolarmente entusiasti. Essi furono i primi, dopo Mrs. Weston ed Emma, ad aver diritto d'essere allietati. Da loro Mr. Weston sarebbe passato a Miss Fairfax, ma essa era così occupata a parlare con Mr. John Knightley che l'interruzione sarebbe stata troppo decisa. E, trovandosi vicina a Mrs. Elton, e vedendo costei libera di necessità, abbordò con essa l'argomento. «Spero d'aver presto il piacere di presentarvi mio figlio», disse Mr. Weston. Mrs. Elton, dispostissima a supporre che le si voleva fare uno special complimento con questa speranza, fece il più grazioso dei suoi sorrisi. «Avete sentito parlare d'un certo Frank Churchill, immagino», continuò lui, «e sapete che è mio figlio, sebbene non porti il mio nome. Ho sicuro e sarò lietissima di farne la conoscenza. Son certa che Mr. Elton non tarderà a fargli visita ed entrambi saremo felici di vederlo alla canonica. Siete molto cortese, Frank sarà felicissimo, ne son certo». Sarà a Londra la prossima settimana, se non prima. L'abbiamo appreso da una lettera ricevuta oggi. Ho trovato le lettere strada facendo stamattina e, vedendo la calligrafia di mio figlio, mi son preso la libertà d'aprirla, sebbene non fosse diretta a me, era per Mrs. Weston. Lei è il suo principale corrispondente, v'assicuro. Io non ricevo quasi mai lettere. E avete addirittura aperto ciò che era indirizzato a lei? Oh, Mr. Weston, con un riso affettato, devo sollevare una protesta, un precedente quanto mai pericoloso. Vi prego di far sì che i vostri vicini non seguano il vostro esempio. Parola d'onore, se questo è ciò che devo attendermi, noi donne sposate avremo da cominciare ad agitarci. Oh, Mr. Weston, non me lo sarei aspettato da voi. Già, noi uomini siamo dei brutti tipi. Dovete stare attenta, ben attenta, Mrs. Elton. Questa lettera ci dice, una lettera breve, scritta in fretta, solo per informarci, ci dice che vanno tutti a Londra immediatamente, per via di Mrs. Churchill, che non è stata bene tutto l'inverno, e pensa che Enscombe sia troppo freddo per lei, così tutti devono recarsi senza indugio nel sud. Così, dallo Yorkshire, mi pare. Enscombe è nello Yorkshire? Sì, sono a circa 190 miglia da Londra, un bel viaggio. Davvero, parola d'onore, un bel viaggio. 65 miglia di più che da Maple Grove a Londra. Ma che cos'è la distanza, Mr. Weston, per gente di grandi mezzi? Rimarreste meravigliato a sentire come mio cognato, Mr. Suckling, talvolta si sposta qua e là. Stenterete a credermi, ma due volte nel corso di una settimana lui e Mr. Bridge andarono e tornarono da Londra con un tiro a quattro. Il guaio della distanza da Enscombe, disse Mr. Weston, è che Mrs. Churchill, a quel che apprendiamo, non è stata in grado di lasciare il sofà per un'intera settimana. Nell'ultima lettera di Frank, essa si lamentava, diceva lui, di essere troppo debole per recarsi nella sua serra senza che lui e lo zio le dessero il braccio. Questo, sapete, vuol dire un bel po' di debolezza, ma ora è così impaziente d'essere a Londra che intende dormire solo due notti in viaggio. Così French informa. Certo, le signore delicate hanno una costituzione straordinaria, Mrs. Elton. Dovete concedermi questo. No, davvero, non vi concederò nulla. Io prendo sempre le parti del mio sesso. Davvero, vi avverto, mi troverete un antagonista formidabile su codesto punto. Io prendo sempre la difesa delle donne e vi assicuro, se sapeste come la pensa Selina a proposito di dormire in albergo, non vi stupireste che Mrs. Churchill faccia sforzi incredibili per evitarlo. Selina dice che per lei è proprio un orrore e io credo d'essermi attaccata un po' della sua schizzinosità. Essa viaggia sempre con le proprie lenzuola, una precauzione eccellente. Fa lo stesso, Mrs. Churchill? Statene certa, Mrs. Churchill fa tutto quello che ha mai fatto qualunque signora sfaccendata. Mrs. Churchill non vuole essere seconda a nessuno, signora, del regno per... Mrs. Elton lo interruppe vivamente con... Oh, Mr. Weston, non fraintendetemi, Selina non è una signora sfaccendata, va sicuro. Non accettate precipitosamente un'idea simile. Non lo è, allora non è un modello per Mrs. Churchill, che è una perfetta signora sfaccendata, se mai ce ne fu. Mrs. Elton cominciò a pensare di aver avuto torto a contraddirlo così vivacemente. Non era affatto suo scopo far credere che sua sorella non fosse una signora sfaccendata. Forse c'era mancanza di spirito nel pretenderlo. E stava riflettendo quale sarebbe stato il miglior modo di ritrattarsi quando Mr. Weston continuò. Mrs. Churchill non è molto nelle mie buone grazie, come potete sospettare, ma questo sia detto tra noi. Essa vuol molto bene a Frank e perciò non vorrei sparlare di lei. Inoltre ora ha cattiva salute, ma a sentire lei di questo ha sempre sofferto. Non direi queste cose a chiunque, Mrs. Elton, ma non presto molta fede alla malattia di Mrs. Churchill. Se davvero sta male, perché non va a Bath, Mr. Weston, a Bath o a Clifton? Si è messa in testa che Enscombe è troppo freddo per lei. Il fatto è, suppongo, che essa è stanca di Enscombe. Ora essa è rimasta stazionaria là per un periodo più lungo di quanto non vi sia mai stata e comincia a desiderare un mutamento. È un posto appartato, un bel posto, ma appartato. Già, come Maple Grove immagino. Nulla può trovarsi di più appartato dalla strada quanto Maple Grove. Tutt'intorno c'è una quantità così grande di piante. Vi sembra d'essere tagliati fuori da ogni cosa, nell'isolamento più completo. E Mrs. Churchill probabilmente non ha né la salute né la vivacità di Selina per godere di quella specie di ritiro. O forse non ha abbastanza risorse in se stessa per essere in grado di abitare in campagna. Io dico sempre che una donna non ha mai abbastanza risorse e sono molto grata ad averne io stessa tante da essere del tutto indipendente dalla società. Frank è stato qui in febbraio per 15 giorni. Così mi ricordo d'aver sentito. Quando egli ci ritornerà, troverà un'aggiunta alla società di Highbury, cioè, se io posso presumere, di chiamarmi tale. Ma forse non avrà mai sentito della mia esistenza. Questo era un invito troppo perentorio a un complimento per essere lasciato senza parola. E Mr. Weston, con assai buona grazia, immediatamente esclamò: «Mia cara signora, nessun altro che voi stessa potrebbe immaginare possibile una tal cosa. Non aver sentito parlare di voi. Credo che negli ultimi tempi le lettere di Mrs. Weston abbiano parlato di ben poco altro che di Mrs. Elton. Aveva fatto il suo dovere e poté tornare a parlare del figlio. Quando Frank ci lasciò, egli riprese, era molto incerto quando l'avremmo potuto vedere di nuovo. E questo rende doppiamente piacevole la notizia di quest'oggi. È giunta del tutto in attesa. Cioè, io ho sempre nutrito una ferma persuasione che sarebbe stato qui di nuovo presto. Ero sicuro che sarebbe capitata un'occasione favorevole, ma nessuno voleva credermi. Lui e Mrs. Weston erano entrambi terribilmente sfiduciati. Come sarebbe potuto riuscire a venire? E come poteva supporsi che lo zio e la zia potessero far di nuovo a meno di lui? E così via. Io ho sempre sentito che qualcosa di propizio sarebbe accaduto in nostro favore. E così è stato, vedete. Ho notato, Mrs. Elton, nel corso della mia vita, che se le cose vanno di traverso per un mese, è sicuro che prenderanno una piega migliore il mese seguente. Verissimo, Mr. Weston, perfettamente vero. È proprio quel che io solevo dire a un certo signore in questa compagnia nei giorni che faceva la corte, allorché, siccome le cose non andavano proprio per loro verso, non procedevano con tutta la rapidità che conveniva ai suoi sentimenti, propendeva a disperarsi e ad esclamare che era sicuro che di quel passo sarebbe venuto maggio prima che la veste crocea di mene fosse indossata per noi. Oh, che pene mi son data per scacciare quei pensieri melanconici e fargli vedere le cose sotto una luce più gaia. La carrozza. Avemmo delusioni circa la carrozza. Una mattina, mi ricordo, venne da me tutto disperato. Fu interrotta da un piccolo accesso di tosse e Mr. Weston immediatamente colse l'occasione per continuare. Avete nominato maggio. Maggio è proprio il mese che a Mrs. Churchill è stato prescritto, o che lei ha prescritto a se stessa, di passare in un posto più caldo di Enscombe, in breve di passare a Londra. Sicché abbiamo la gradevole prospettiva di frequenti visite di Frank per tutta la primavera, proprio la stagione dell'anno che uno avrebbe scelto. I giorni, quasi della massima lunghezza, il tempo mite e piacevole che invita sempre a uscire di casa e mai troppo caldo per far moto. Quando è stato qui prima, abbiamo fatto come meglio si poteva, ma c'è stato un bel po' di tempo piovoso, umido, tetro. Ce n'è sempre di febbraio, sapete. Non abbiamo potuto fare la metà di ciò che volevamo. Adesso sarà il momento. Questa volta ci sarà da godersela pienamente. E non so, Mrs. Elton, se l'incertezza dei nostri incontri, la sorte di costante attesa che ci sarà nel suo giungere oggi o domani, o a qualunque ora, non contribuiscono più alla felicità che non averlo effettivamente in casa? Io credo di sì. Credo che sia lo stato di spirito che dà più brio e piacere. Spero che mio figlio vi piaccia, ma non dovete aspettarvi un prodigio. Di solito è considerato un giovanotto in gamba, ma non aspettatevi un prodigio. Mrs. Weston ha un debole per lui, e come potete immaginarvi, questo mi riesce assai gradito. Per lei non ce n'è un altro come lui. E io vi assicuro, Mr. Weston, che io non dubito che la mia opinione sarà decisamente in suo favore. Ho sentito tante lodi di Mr. Frank Churchill. Al tempo stesso è giusto osservare che io sono di coloro che sempre giudicano da sé e non sono affatto implicitamente guidati dagli altri. Vi avverto che come trovo vostro figlio, così lo giudicherò. Non sono un'adulatrice. Mr. Weston rifletteva. Spero, disse dopo un po', di non essere stato severo con la povera Mrs. Churchill. Se è malata, mi dispiacerebbe d'essere ingiusto con lei. Ma ci sono dei tratti del suo carattere che mi rendono difficile parlare di lei con l'indulgenza che desidererei. Non potete ignorare, Mrs. Elton, il mio legame con quella famiglia, né il trattamento che mi è stato fatto. E, sia detto tra noi, tutta la colpa è di lei. Lei è stata l'istigatrice. La madre di Frank non sarebbe mai stata trattata con tanta poca considerazione se non per via di lei. Mr. Churchill è orgoglioso, ma il suo orgoglio è nulla rispetto a quello di sua moglie. Il suo è un genere d'orgoglio calmo, indolente, signorile, che non farebbe del male a nessuno, e solo mette lui un po' alla mercé degli altri e lo rende un po' uggioso. Ma l'orgoglio di lei è arroganza e insolenza, e quel che soprattutto indispone è che essa non può vantare con giustizia famiglia o sangue illustre. Essa non era nulla quando lui la sposò, solo la figlia ad un signore. Ma da quando è stata mutata in una Churchill, ha battuto tutti i Churchill nelle pretese più alte e stravaganti. Ma lei rimane, in fondo, vi assicuro, una villana rifatta. Pensate, già codesto deve essere oltremodo irritante. Io ho un orrore dei villani rifatti. Maple Grove mi ha dato un completo disgusto per gente di quel genere, perché nelle vicinanze c'è una famiglia che secca tanto mio cognato e mia sorella con le arie che si dà. La vostra descrizione di Mrs. Churchill mi fa subito pensare a loro. Gente di nome Tubman, venuti a stare da queste parti da poco tempo e ingombri di parenti umili, ma loro stessi si danno certe arie e pretenderebbero di stare alla pari con le vecchie famiglie del posto. Avranno abitato a West Hall tutto il più un anno e mezzo, e come siano diventati ricchi nessuno lo sa. Sono venuti da Birmingham, che è un posto che non promette molto, sapete, Mr. Weston. Non si spera molto da Birmingham. Io dico sempre che quel nome ha un suono terribile. Ma niente di più si sa di positivo dai Tubman, sebbene si sospettino, vi assicuro, molte cose. Eppure, a giudicare dai loro modi, evidentemente essi si ritengono pari perfino a mio cognato, Mr. Suckling, che si trova a essere uno dei loro vicini più prossimi. È proprio una cosa intollerabile. Mr. Suckling, che da ben 11 anni risiede a Maple Grove e il cui padre lo possedeva prima di lui, almeno credo, sono quasi certa che Mr. Suckling aveva completato l'acquisto prima di morire. Furono interrotti, era servito il tè, e Mr. Weston, avendo finito di dir quel che voleva, colse l'occasione per allontanarsi. Dopo il tè, Mr. Weston e Mr. Elton si misero a giocare a carte con Mr. Woodhouse. Gli altri 5 furono lasciati alle loro risorse, ed Emma dubitava che potessero andare molto d'accordo, perché Mr. Knightley sembrava poco disposto alla conversazione. Mrs. Elton voleva attirare attenzione e nessuno si sentiva propenso a tributargliela, e lei stessa sentiva un turbamento che le avrebbe fatto preferire di rimanere zitta. Mr. John Knightley si dimostrò più loquace del fratello. Doveva separarsi da loro di buon'ora la mattina seguente e presto cominciò con: «Ebbene, non credo d'aver altro da dire intorno ai ragazzi, ma hai la lettera di tua sorella e ogni cosa è lì messa per esteso, se ne può essere sicuri. Le mie raccomandazioni sarebbero assai più concise delle sue e probabilmente di spirito alquanto diverso. Tutto quel che ho da raccomandare si riduce a non viziarli e non purgarli». «Spero di soddisfare entrambi», disse Sam, «perché farò il possibile per renderli felici, e questo basterà per Isabella. E la felicità di necessità esclude la falsa indulgenza e le purghe. E se trovi che li disturbano, devi rimandarli a casa. È molto probabile, lo credi, no? Spero di rendermi conto che potrebbero essere troppo rumorosi per tuo padre, o anche potrebbero essere un impiccio per te, se i tuoi impegni di visite continuano a crescere quanto hanno fatto negli ultimi tempi. A crescere. Ma certo, devi accorgerti che l'ultimo mezz'anno ha prodotto una gran differenza nel tuo modo di vita. Differenza? Ma io non la sento. Non c'è dubbio che hai molti più impegni di società che non prima. Questo d'oggi ne è un esempio. Sono venuto qui solo per un giorno ed eccoti impegnata con un pranzo. Quando è mai successo prima? Quando è mai successa una cosa di questo genere? I tuoi vicini aumentano e tu li frequenti di più. Poco tempo fa ogni lettera a Isabella raccontava di nuovi divertimenti. Pranzi da Mr. Cole o balli alla corona. La differenza che Randalls soltanto crea nelle tue abitudini è grandissima. «Sì», disse il fratello di lui rapidamente, «la causa di tutto è Randalls». «Benissimo, e siccome Randalls, suppongo, non è probabile che abbia in futuro meno influenza che finora, ritengo possibile, Emma, che Henry e John qualche volta possano costituire un impiccio. Se è così, ti prego solo di mandarli a casa». «No», esclamò Mr. Nighty, «questa non è necessariamente la conseguenza, che siano mandati a Donwell. Io di certo avrò tempo libero». «Parola d'onore», esclamò Emma, «voi mi divertite. Vorrei sapere quanti di tutti i miei numerosi impegni hanno luogo senza che voi siate della compagnia e perché si suppone che io corra il rischio di non aver tempo libero da occuparmi dei ragazzi. Questi miei stupefacenti impegni quali sono stati? Pranzare una volta dai Cole e parlare di un ballo che non ha mai avuto luogo». «Posso capire te», facendo un cenno a Mr. Giornati, «la tua buona fortuna di incontrare qui insieme tanti dei tuoi amici ti fa troppo piacere per passare inosservata. Ma voi», volgendosi a Mr. Nighty, «che sapete quanto di rado, proprio di rado, io sono mai assente per 2 ore di seguito da Harfield, perché dobbiate prevedere per me una tal serie di scioperatezze, non posso immaginare. E quanto ai miei cari ragazzini, devo dire che se la zia Emma non ha tempo per loro, non credo che si troverebbero molto meglio dallo zio Knightley, che è assente da casa pressappoco 5 ore mentre essa lo è una sola, e che quando è a casa o è immerso nella lettura o regola i suoi conti». Mr. Knightley parve che cercasse di non sorridere, e ci riuscì senza difficoltà, poiché Mrs. Elton gli rivolse la parola. Un pochino di riflessione tranquilla fu sufficiente perché Emma si rendesse conto della natura della propria agitazione a sentire quella notizia di Frank Churchill. Presto si convinse che non era per se stessa che si sentiva in apprensione o in imbarazzo, era per lui. Il suo proprio attaccamento si era ridotto a ben poco, non valeva la pena di pensarci. Ma se lui, che indubbiamente dei due era stato sempre il più innamorato, fosse tornato con lo stesso calore di sentimento col quale era partito, la cosa sarebbe stata molto sconcertante. Se 2 mesi di separazione non l'avessero raffreddato, c'erano dinanzi a lei pericoli e guai. sarebbe stata necessaria cautela per lui e per lei medesima. Non aveva intenzione che i suoi propri affetti venissero di nuovo coinvolti e sarebbe stato suo dovere di evitare ogni incoraggiamento in quel senso. Desiderava di riuscire a tenerlo lontano da un'esplicita dichiarazione. Questa sarebbe stata una fine così penosa della loro conoscenza presente, eppure non poteva trattenersi dal prevedere qualcosa di decisivo.